potresti versarmi un po' di vino rosso, colmare i miei sentimenti di pensieri, magari ubriacarmi con parole dolci e bugie, sconvolgendo le mie passioni. Potresti sfamarmi poi col tuo sorriso, riempirmi la bocca delle tue attenzioni, magari sicura che mai sarò sazio di te, mescolando le tue ragioni. Dentro il mio cuore sei sincera. Potresti narrarmi come fossi un libro, cantare indicando gesti le figure, ma non raccontare mai che hai fiducia in me, sto scrivendo le mie prigioni. Potresti impiccarmi quando canta il gallo all'albero dei ricordi, delle scuse, ma non ti voltare mai, la corda è lunga e a volte lento è il cambio delle illusioni. Tu mai amata, e sei una strega